Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, buonasera da Maurizio Melis, benvenuti a Smart City. Toccare la consistenza di un prodotto prima di acquistarlo online, stringere la mano ad un amico collegato ad internet dall'altra parte del mondo o ancora, per esempio, registrare i propri figli mentre giocano unendo al video e all'audio anche le sensazioni tattili in modo da poterle poi rivivere magari a distanza di anni. Tutte queste esperienze potrebbero diventare possibili o comunque è più vicino il momento in cui lo diventeranno grazie ad una nuova tecnologia per il tatto virtuale nella realtà aumentata messa a punto dal gruppo di Domenico Pratichizzo, professore di robotica all'Università di Siena, senior scientist presso l'IT di Genova. Naturalmente Pratichizzo è in linea con noi. Buonasera Pratichizzo. Buonasera, buonasera a tutti e grazie della telefonata. Allora, senta, il vostro lavoro, intanto i risultati del vostro lavoro sono stati descritti sulla rivista Transaction on Haptics e ci sono commenti entusiastici da parte degli esperti sui siti della rivista Science a proposito di quanto avete fatto. Allora, ci spieghi un po' meglio intanto di che cosa stiamo parlando. Sono degli oggetti indossabili, giusto? Sono degli oggetti altamente indossabili, sono degli oggetti che pesano dai 70 ai 100 grammi e si declinano in due forme principali, ditali o anelli. Entrambi hanno due tipi di funzionalità, hanno la grande capacità di deformare la pelle esattamente come quando noi tocchiamo degli oggetti. Sì, quando tocchiamo degli oggetti la cosa più macroscopica che ci accade a livello del nostro corpo, in particolare delle dita, che è l'organo alla mano e l'organo principale per il tatto, è proprio la deformazione della pelle. È proprio lì che agiamo con dei dispositivi di micromeccatronica, sono dei motori che sono indossati sulla parte alta del dito, quindi diciamo sull'unghia oppure sul dorso della prima falange, e poi c'è una piattaforma che può essere rigida o semirigida che deforma la pelle esattamente come fanno gli oggetti quando tocchiamo. E questo dicevamo perché l'informazione forse anche più importante effettivamente quando tocchiamo un oggetto, riconosciamo la forma che abbiamo sotto le dita. Poi però c'è un'altra sensazione che riuscite a trasmettere, quindi oltre a quella della forma dell'oggetto, che è la sua rugosità, è corretto? Sì, la rugosità. La rugosità è una sensazione che agisce a livello dei nostri recettori come se noi applicassimo una vibrazione. Per intenderci, se io prendessi uno dei motorini vibranti dei nostri telefonini e l'applicassi sul nostro dito, modulando la frequenza, potrei replicare la sensazione di toccare una superficie liscia come il vetro oppure una superficie che avrà una vibrazione pressoché nulla, no? Sostanzialmente, esatto. Rispetto a una come il legno. E più è grossolana la superficie, più non so, la vibrazione è a bassa frequenza, per esempio, una cosa del genere. Sì, esattamente. Più vado verso degli oggetti che invece sono molto molto articolati, quindi hanno delle superfici molto lavorate, più la frequenza aumenta. Ed è proprio la combinazione delle due che rende ad altissima definizione la sensazione che percepiamo, cioè la deformazione combinata con tecniche di motori vibranti riesce a riprodurre queste due sensazioni in modo egregio. Perché in qualche modo messe insieme queste due sensazioni riescono a ingannare il cervello. Voi fate un po' questo giochino, no? Sì, in realtà è proprio perché di fatto noi abbiamo dei ditali, non abbiamo degli oggetti nelle nostre mani, certo. Quindi quando generiamo queste sensazioni di fatto inganniamo il cervello. Lo inganniamo tanto più quanto usiamo gli anelli. Gli anelli sono straordinari perché gli anelli, può immaginare lei, no? Cioè l'anello lascia la mano molto più libera rispetto al ditale. Ecco, perché questo è uno degli aspetti, non ne abbiamo parlato, ma insomma uno degli aspetti fondamentali del vostro lavoro, cioè degli oggetti che siano in grado di trasmettere sensazioni tattili ma che contemporaneamente non imprigionino la persona, no? Gli consentano di continuare a interagire con tutto il resto. E gli anelli da questo punto di vista, le dice, sono eccezionali perché lasciano i polpastrelli liberi. Sì. Ma allora uno come fa a sentire la sensazione? No? È qui che inganniamo il nostro cervello, perché in realtà la sensazione tattile non è trasmessa al polpastrello, ma è trasmessa sulla prima falange dove indossiamo l'anello. Però ovviamente questa sensazione è contestualizzata da un videogame che noi percepiamo a livello visivo. e quindi visivamente noi vediamo che stiamo toccando con il polpastrello anche se sentiamo attraverso l'anello, e così il nostro cervello, che è molto intelligente e riesce a contestualizzare il tutto, cerca di associare le informazioni e si lascia prendere tranquillamente in giro. Certo, esattamente come quando abbiamo un miraggio, diciamo, non è molto diverso, vediamo qualcosa che siamo abituati a riconoscere come uno specchio d'acqua e il nostro cervello ci dà quindi quella informazione. Esatto, proprio così. Va bene, allora ci fermiamo qui per intanto. Pratichizzo, grazie, ma ci risentiamo domani per parlare di questo mondo del tatto virtuale che finora è sostanzialmente rimasto inesplorato, no? La realtà virtuale è qualcosa che conosciamo ma normalmente non comprende il tatto. Grazie Pratichizzo. Grazie a lei per l'intervista, grazie. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.